Una redazione con 10 computer, 2 studi per trasmettere in diretta, ma soprattutto 40 piedi a camminare per Genova e 20 paia di occhi a guardarla per poi raccontarla. Da oggi Popolare Network è dentro al G8 e fuori, per le strade e nella cittadella del Genoa Social Forum. Nei giorni delle manifestazioni Popolare Network seguirà in diretta i cortei per tutta la giornata. Allora partiamo tra pochissimo alle 9.30, si apre il ciclo di conferenze, dibattiti, incontri organizzato dal Genoa Social Forum a Punta Vagno. Un altro mondo è possibile, questo è il titolo del forum, la struttura è ogni giorno all'incirca la stessa. Al mattino confronto tra associazioni ed organismi, al pomeriggio invece una seduta plenaria in cui si affronteranno le grandi questioni della globalizzazione. Organizzare il forum non è stato facile, venerdì la regione Liguria si è rimangiata la promessa di finanziare con 200 milioni il forum. Fabio Lucchesi, tra gli organizzatori, ci racconta le difficoltà. Notevoli problemi. Praticamente il forum è quasi completamente autogestito da questo punto di vista, nel senso che a disposizione sono state messe soltanto le strutture fisse, addirittura ieri ci è stato detto che non saranno messe a disposizione neppure le strutture per la traduzione simultanea, cosa che sarà un ulteriore elemento di difficoltà e purtroppo conferma un clima in cui, voglio dire, il diritto a manifestare viene formalmente riconosciuto ma poi nei fatti reso quasi impraticabile. Naturalmente, per quanto riguarda la presenza di rappresentanti internazionali, soprattutto dei movimenti del sud del mondo, in rappresentanza dei quali ci sono più di 50 relatori, c'è stato un problema comunque anche economico di garantire il diritto a queste persone di venire qua a parlare. Però questo problema è stato praticamente affrontato in maniera forte, puntando molto sulle risorse mobilitate dai movimenti che partecipano al Genoa Social Forum. Per farti solo un esempio, la rete Lilliput, di cui io faccio parte, ha investito su questo qualche decina di milioni per poter permettere che il public forum fosse possibile. Assedio per assedio, ma dalla nostra sarà di parole. Gli organizzatori del Genoa Social Forum lanciano la sfida ai G8 a partire proprio da oggi. All'assedio della città, fatto di aeroporti chiusi, hotel negati ai contestatori, controlli a tappeto, le 700 organizzazioni venute a dire un altro mondo è possibile, rispondono con dibattiti, incontri, manifestazioni di piazza piene di contenuti. Una risposta chiara a chi vuol far passare questo forum come un braccio di ferro per l'accesso alla fatidica zona rossa, il cuore di Genova. E allora ogni pomeriggio dibattiti in sessioni plenarie con ampi temi: democrazia globale, alternative alla globalizzazione economica, diritto di cittadinanza. Ma oggi si inizia con un dibattito preciso che sa di avvertenza. Questo mondo non è in vendita. Come promesso, il movimento riprende quindi il filo da Porto Alegre. Neanche a farlo apposta c'è un'assonanza tra genovese e brasiliano nel dire un altro mondo è possibile. Il primo che alzerà la propria voce sarà Walden Bello del Focus on the Global South. Well, I think the crisis of legitimacy is something that hits the institutions that govern global governance, like the IMF. Penso che in questo momento ci sia una crisi di legittimità che sta interessando le istituzioni di governo globale come la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e il WTO. È ormai chiaro che le regole che queste istituzioni promuovono favoriscono gli interessi delle grandi corporation, delle multinazionali piuttosto che quelli delle persone, ma le stesse multinazionali sono in questo momento in uno stato di crisi severa, mancano ormai di legittimità, perché i cittadini cominciano a capire che, per ottenere profitti, le multinazionali non esitano a commettere azioni criminali contro la salute, l'ambiente, la vita stessa dei cittadini. Poi c'è il sistema delle élite democratiche, quelle che governano i paesi di democrazia liberale. I cittadini negli stessi paesi occidentali cominciano a rendersi conto che il denaro delle corporation controlla le azioni politiche di queste élite. Un esempio chiaro di quanto dico lo si vede negli Stati Uniti. Lì c'è un uomo che non ha conquistato il voto popolare, il voto dei collegi elettorali, che è stato sostenuto dal denaro delle multinazionali e che ora è diventato presidente degli Stati Uniti proprio grazie al denaro delle multinazionali. No! e a causa della sovrapproduzione c'è un movimento di investimenti dall'economia alla finanza, la produzione industriale non dà più profitti, ma la finanza sta collassando. Metti insieme tutti questi fatti, avrai una crisi di legittimità ed una crisi strutturale. Queste sono le condizioni in cui il Genoa Social Forum si svolge. Il sistema neoliberale è a un punto di reale frattura, di debolezza, e questa è la ragione perché le autorità stanno reagendo in modo così nervoso e autoritario. Oltre Genova, il sistema di potere delle multinazionali e dei governi a esse collegate ha ora scarsissimo sostegno popolare.